24 mattino estate con Irene Zerbini. Ti accorgi di avere reazioni violente? Vivi una situazione familiare conflittuale? Scarichi in casa la rabbia, in famiglia non vi parlate più? Queste sono alcune delle domande che pone un volantino che si può trovare per le strade di Torino. Innanzitutto, buona giornata da Irene Zerbini, 16 minuti alle 7. Parleremo oggi, e forse l'avete colto dal tono di queste domande, della violenza sulle donne, partendo dal problema della prevenzione. Si può prevenire, si possono evitare tragedie come quelle che riempiono i titoli dei giornali, dei notiziari in questi mesi, che costellano di drammi la vita di donne, di famiglie, dei loro bambini. Si può agire sui maschi? Si può insegnare il rispetto delle donne? E soprattutto si può ascoltare il disagio maschile? Questo il tema di Bianconero, scatterà alle 8:30. Intanto, se volete partecipare alla domanda che vi abbiamo fatto, andate sul sito www.radio24.it, poi cercate in palinsesto la trasmissione 24 mattino. Ci è stata chiesta anche l'email di questa trasmissione mattutina, www.24mattino@radio24.it. E ora andiamo invece a Milano, dove c'è qualcuno che soffre per un altro episodio che ha per oggetto una donna. È stata una vittima casuale, vittima perché donna? Anche su questo rimangono molti punti interrogativi. Stiamo parlando naturalmente della signora Emlu. Resta in carcere Oleg Fedchenko, il pugile che l'ha uccisa a pugni venerdì mattina. E intanto il PM Celle ha affidato ai poliziotti delle volanti delle indagini specifiche su eventuali responsabilità dei medici che lo avevano in cura. Perché? Lo abbiamo chiesto a Zita Dazzi. Buongiorno, benvenuta Zita. Buongiorno. È una cronista di Repubblica che ha seguito anche questa drammatica vicenda. Zita, che responsabilità potrebbero avere i medici? Qual è l'ipotesi in questo caso? Di Oleg si sa che aveva avuto già in passato diversi problemi di carattere psichiatrico ed era stato in cura più volte presso gli ospedali milanesi, al Niguarda, al Policlinico, aveva subito anche dei TSO, che sono trattamenti sanitari obbligatori, ed era, diciamo, in terapia, aveva prescrizione per assumere alcuni farmaci che peraltro lui non assumeva con regolarità, tanto che venerdì scorso, la mattina in cui ha ucciso questa donna filippina per strada, aveva ancora in tasca delle pillole di psicofarmaci per disturbi di tipo depressivo bipolare che comunque non aveva preso. Ecco, quindi si tratta di un uomo che non stava bene nella sua testa e che, nonostante questo disagio psichico, però aveva avuto l'abilitazione per fare il suo sport preferito, quello del pugile. Quindi, insomma, da una parte c'è la sanità che lo autorizza ad esercitare un'attività sportiva molto cruenta, particolare, sì. E dall'altra invece c'è la sanità che gli dice: tu stai male con la testa, curati. Quindi, come sempre. E in mezzo si profila questa possibilità appena suggerita che non sia stato curato perché il permesso di soggiorno gli era scaduto da un anno. Ora, abbiamo contattato il Policlinico ieri, e il direttore sanitario ha dichiarato di non aver nulla da aggiungere a quanto emerso, ma sembra che non sia pratica diffusa tra gli psichiatri, soprattutto di fronte a un paziente che in passato ha avuto anche un TSO, rifiutarlo perché i suoi documenti di permesso di permanenza nel paese, o insomma il suo stato di regolarità, non sia esattamente a posto. Questo quanto così trapela a livello informale. Sembra strano che un paziente di questo genere sia stato rifiutato oppure non sia stato assistito o curato. Cosa vi risulta nella redazione cronaca di Repubblica Zeta? Sì, sembra che, diciamo, nella strategia difensiva dei legali di questa persona ci sia anche questo elemento di fare appello al problema della clandestinità, però sinceramente sembra più appunto una tecnica difensiva, un appiglio legale, perché poi in realtà né nella legge c'è scritto che i medici non devono curare i clandestini o quelli irregolari con permesso di soggiorno, né è prassi diffusa, nel senso che anche quando era in discussione quella parte della legge lì che poi non è passata, comunque i medici avevano continuavano ad assistere clandestini, soprattutto in situazioni che potevano anche portare a conseguenze pesanti per la collettività, penso alle malattie contagiose, penso a casi di psicosi di questo tipo. Ieri tu hai tracciato, nel raccontare il dolore della comunità filippina, una fotografia della Milano di oggi, il dolore della città multietnica. Hai assistito alle celebrazioni che ricordavano la vita della signora che è stata uccisa venerdì, e poi hai assistito ad altre celebrazioni, non così ovvie, abbastanza inaspettate. Ce ne vuoi parlare? Sì, la cosa che diciamo che colpisce in questo frangente drammatico è la compostezza delle comunità coinvolte, perché se diversamente nel marzo scorso in via Padova, dopo un omicidio di un ragazzo egiziano da parte di un gruppo di sudamericani, era venuto fuori una guerra di strada fra le due comunità, qui invece abbiamo visto una reazione di grande dolore, ma anche di estrema compostezza, nel senso che i filippini, un po' per come sono fatti loro, hanno semplicemente mostrato tutta la loro solidarietà alla famiglia con un lungo e continuo e ininterrotto pellegrinaggio sul luogo del delitto in Viale Abruzzi, ma dall'altra abbiamo visto che anche la comunità ucraina, che a cui appartiene diciamo Oleg l'assassino, ha avuto subito nei confronti della comunità filippina un atteggiamento di richiesta di perdono, di grande. E come l'ha fatto? Come è stato richiesto questo perdono? C'è stata una lettera da parte diciamo delle autorità della comunità spirituale e religiosa a livello nazionale all'ambasciatore filippino in Italia, una lettera molto bella di grande insomma solidarietà verso i filippini, e poi nelle chiese milanesi, in particolare al Sacro Volto, dove gli ucraini si ritrovano ogni domenica per la loro messa, la loro guida religiosa, il loro pastore li ha invitati a riflettere su quello che è successo, ha distribuito un foglio sul quale è stato stampato, su quale lui ha stampato tutta la dinamica di quello che è successo per spiegare ai suoi fedeli. Padre Alessandro Lisoschi ha tradotto in ucraino, per chi ancora non avesse dimestichezza con l'italiano, dunque non avesse accesso alla stampa italiana, ha tradotto in ucraino quanto successo, e nonostante questo, vabbè, va specificato, appare ovvio, la collettività, la comunità ucraina non ha alcuna responsabilità in quanto successo, ha chiesto scusa a nome della nostra gente, vi si legge così, alla famiglia della signora Emlu. Invoco il perdono alla grazia di Dio di fronte a questo terribile gesto compiuto da un nostro connazionale ai danni di una persona buona e innocente che ha lasciato una famiglia, dei figli piccoli. Vorrei farvi sentire ora la testimonianza della presidente dell'ANIF, l'Associazione Nazionale Italiani Filippini, Noemi Manalo, raccolta da noi ieri. È troppo dolore per noi, perché siamo venuti qua in Italia a lavorare, per esempio quella donna lì, e proprio una tragedia che non possiamo accettare, è successo solo così, che lei ha lasciato il figlio per solamente per andare a un altro lavoro, è proprio una cosa che non possiamo accettare. Ogni minuto mi arrivava messaggi al telefono con tutti i nomi dei filippini che chiedono la giustizia. Vogliamo giustizia per lei. È un dolore, mi fa piangere. È troppo doloroso, non solo per me, per tutti i filippini, ma molto per la famiglia che ha lasciato. Emi, noi sappiamo che moltissimi della comunità filippina vogliono praticamente confortare la famiglia della donna, stringersi intorno a questo nucleo familiare, aiutarlo anche. Sì, fino alla fine, fino che avrà la giustizia per la morte. Dal governo italiano chiediamo aiuto, chiediamo la giustizia per la sua morte. Siamo venuti qui tranquillamente per lavorare, per far vivere la famiglia e non meritiamo di essere trattati così. La comunità ucraina ha chiesto scusa tramite rappresentanti per il dolore che ha inflitto involontariamente un appartenente alla comunità, alla loro gente. Come avete accolto questa richiesta di scuse? È dalla nostra parte. Che possiamo dire? Che possiamo rispondere? E una scusa può far tornare indietro la vita di una persona che è già morta? Che dobbiamo dire anche? Che dobbiamo rispondere a questo fatto? Una scusa può tornare indietro una vita di una famiglia? Non lo so. Ma è anche un'acquisizione di responsabilità che poi una collettività non ha, non è colpa di tutti gli ucraini quello che è successo. Lo so, però tutti quanti, non solo gli ucraini, devono capire che siamo tutti stranieri qua in Italia, abbiamo i diritti uguali e allora devono capire che noi dobbiamo, siamo qui in Italia per vivere, siamo qui in Italia per la nostra famiglia, per il nostro futuro. E non credo che una straniera deve essere, diventa vittima di un altro straniero. Tutti quanti vogliono la giustizia, dicono che se non arriva questa giustizia, tutti quanti vanno per le strade in tutta Italia. Per questo ci sarebbe un corteo, una manifestazione per richiedere giustizia. Un grande corteo. Stanno facendo, mi sembra che quasi tutti quanti, tutti i posti, tutte le città stanno preparando questo. Giustizia non vendetta, l'avete sentito nel dolore straziante anche della presidente dell'ANIF, Associazione Nazionale Italiani Filippini. Lei si chiama Noemi Manalo. La sua email è l'email di questa associazione per tutti coloro che ci stanno chiedendo di partecipare al dolore. A volte un messaggio può portare grande conforto. anif_api@yahoo.it. E la violenza non ha nazionalità, è stato ricordato anche dal non so esattamente se fosse un vescovo o comunque una persona che celebrava il rito degli ucraini domenica a Milano. È inaccettabile la violenza in tutte le sue forme, ha detto. E poi, in un paese in cui la cittadinanza si dà in tempi ragionevoli, non si parlerebbe di filippini ucraini, ma si parlerebbe del dramma di due destini che si sono incrociati, quello di quest'uomo di 25 anni con delle problematiche, vedremo se trascurate a livello clinico o che non possono essere utilizzate come attenuanti, e quelle di una donna con un dolore che per generazioni segnerà anche questa famiglia. 24 mattino estate. Ben ritrovati anche questa mattina, l'appuntamento con i corrispondenti stranieri in Italia. È con noi Irina Stoilova. Buongiorno Irina. Buongiorno. Corrispondente per la Radio Nazionale Bulgara, anzi in questo momento ti trovi in Bulgaria. Esatto, sono in vacanza, tocca anche a noi. Dove ti trovi esattamente? Sono a Sofia, nella capitale. Ci sono voli diretti Roma-Sofia? Sì, sì, ci sono voli diretti praticamente ogni giorno. Devo dire che era anche pieno, per cui ho incontrato anche turisti, i contatti e gli scambi, diciamo, che sono attivi anche d'estate. Cosa vanno a vedere in Bulgaria i turisti italiani, per esempio? I turisti italiani vengono molte persone giovani, vengono per curiosità, credo, per vedere un paese che ancora non hanno visitato, dei famosi paesi dell'est. So che vengono molto per sciare nella stagione invernale, perché la Bulgaria ha delle montagne alte, per sciare si possono fare le vacanze bianche anche a costi molto più bassi che in Italia, credo che siano contenti con questo da tutta l'Europa, vengono per visitare i monasteri. Qual è invece il rapporto tra l'euro e il lev? Perché la Bulgaria è in Europa dal 2007, ma ancora avete una valuta nazionale. Quasi il doppio. Due leva, un euro sono due leva, e praticamente per me è sempre stato facile perché era come la lira. Un lev è come quello che erano le 1.000 lire per gli italiani. Quindi è facile mentalmente convertire quando si, esatto, si viaggia. Sì, sì, sì. Ma parliamo invece di cosa leggono i bulgari o di cosa ascoltano alla radio, per esempio. Tu ne, sì, sai qualcosa visto che fornisci materiale. Dall'Italia cosa ti è stato chiesto in quest'ultimo anno? Diciamo che gli ultimi pezzi che ho fatto erano più su temi estivi, per esempio proprio l'ultimo pezzo era su come la crisi riflette sulle vacanze degli italiani, il fatto che quest'anno sono tornati di moda più le vacanze in campeggio, i viaggi brevi, eccetera, e che il 46% degli italiani non andrà, rimarrà a casa per motivi economici, più persone dell'anno scorso. In questo senso i bulgari amano paragonarsi con gli altri, compresi anche gli italiani. Poi gli ho raccontato anche del cambio della riforma del codice della strada ultimamente, che introduce misure più severe per chi guida dopo aver bevuto alcol oppure per velocità eccessiva. Questo certamente per i turisti che vengono in Italia, che devo dire ultimamente sono sempre di più. Vengono anche in macchina, per cui è un'informazione interessante. Devo raccontare quando discutiamo cosa includere nel notiziario con i colleghi della redazione. Io spesso propongo anche la politica, ma nelle ultime occasioni appunto è stato preferito raccontare qualcosa di più frivolo oppure più di curiosità che non la politica, perché i bulgari e gli italiani credo hanno in comune la fiducia per i propri politici, per cui abbiamo deciso con i colleghi di non annoiarli con la politica anche d'estate quando vanno. Sì, neanche qua non è che vadano proprio da morire i pezzi su Borisov o sul vostro primo ministro, esatto, o sulla politica, sì, bulgara, dunque si capisce anche. Sì. Ma quali sono gli aspetti della vita quotidiana, Irina? Vivi in Italia da 15 anni. Che ancora ti trovi a dover spiegare ai tuoi connazionali bulgari nei tuoi pezzi sulla radio? Ma rimangono alcuni punti che sono sempre di interesse. Il Papa, alcuni della mia carriera professionale, il momento più importante credo sia stato la morte di Giovanni Paolo II e l'elezione del nuovo Papa. Poi interessa molto Berlusconi sempre, e devo dire che in tutta la stampa estera, questo i colleghi lo possono confermare. Sì, sì, lo confermano ogni mattina, esatto, ci parlano, sì, di questo, sì, sì, interesse. Perché è un personaggio già conosciuto. Come dire, l'opinione pubblica è difficile introdurre nuove persone per i quali loro non sanno molto, per cui Berlusconi è sempre una cosa che mi chiedono anche quando mi trovo qua in Bulgaria. E poi c'è una cosa che anche accomuna: durante l'ultima visita del nostro primo ministro a maggio a Roma, Berlusconi aveva fatto la battuta che sono i due primi ministri che hanno la fiducia più alta nell'Unione Europea, che supera i 50-60%, per cui sono amici. Sì, sì, sono amici, sì, sì, sì. Tra le cose che racconto spesso sono le azioni della polizia in Italia, come appunto buon esempio, la lotta contro la criminalità. Di solito quando ci sono grosse operazioni contro l'andrangheta o la camorra, li racconto sempre, anche perché, soprattutto legati alla camorra, perché è diventato popolare anche qui il nome di Roberto Saviano, per cui e quindi generale... Mi hai nominato Berlusconi, Saviano, due nomi italiani che circolano anche, sì, nell'opinione pubblica bulgara. Chi altro si conosce di italiano? Beh, a parte il Papa e tutti gli eventi legati al Vaticano, Beh, Di Pietro lo conoscono perché spesso viene in Bulgaria, non solo per questo, ma anche per Mani Pulite, per la lotta già dai tempi di Mani Pulite ci sono stati spesso occasioni, dei nomi fini, però già Bossi, sì. Beh, insomma, c'è una conoscenza abbastanza così però diffusa dobbiamo dire un nome della che classe politica, tutti. Sì. Ho avuto un episodio che non mi ha impressionato, che tornando dall'aeroporto il tassista, invece di chiedermi appunto qualcosa sui temi alti che io credo da raccontare da Roma, mi ha chiesto come va il ginocchio di Totti, sta recuperando. Cioè Irina, tu ti spendi in analisi dettagliate della politica italiana, poi sì. Racconti le operazioni di 'Ndrangheta, sì. Racconti ciò che fa soffrire il Parlamento, il governo italiano, ciò che lo tiene impegnato, e poi prendi il taxi a Sofia per andare a casa tua e il taxista bulgaro che ti riconosce e ti chiede come va il ginocchio di Totti. Beh, hai riassunto sì. un'esistenza, sì. E il senso del giornalismo. Ma questo credo sia normale, la gente chiede anche come gli italiani vivono la crisi, se veramente tutto è diventato più caro, se la vita è difficile, quanto è lo stipendio medio, queste cose che sono curiosità normali. Comunque per l'Italia, per i bulgari, ha un fascino molto grande, come non solo per i bulgari, certamente. Perché? Quali aspetti dell'Italia, della vita italiana? Le bellezze della natura, dell'arte, i musei, il fascino delle città d'arte, Firenze, Roma, da Venezia, eccetera. E per te che ci vivi da 15 anni cosa rimane affascinante? Beh, per me è sempre un tramonto quando torno dal lavoro, dalla stampa estera a casa e supero e salgo sul Quirinale, e un tramonto sulla cupola di San Pietro, oppure quando passo per i fori imperiali e becco il semaforo rosso, mi fa sempre piacere perché mi godo la bellezza, quello sì. Però nel quotidiano questo mi ripaga per le difficoltà nel quotidiano che tutti gli italiani hanno, tipo questa ammirazione, questa bellezza. Devo dire che anche la vostra piazza del Parlamento a Sofia è decisamente suggestiva. Sì, legata ad altri tempi e ad altra, completamente altra storia, molto più recente, ma sì, non dimentichiamo che la Bulgaria, molte delle cose che ha la Bulgaria sono dei tempi dei romani, strade, anfiteatri, eccetera. Comunque non posso anche nascondere le difficoltà degli stranieri che vivono in Italia, e molti dei miei amici americani si stupiscono per esempio come è possibile dover prendere giorni di ferie per sbrigare le piccole cose burocratiche. La burocrazia oppressiva è una cosa che impressiona molto gli stranieri. Sì, e anche questo è trasversale, cioè non c'è nazionalità che non si sorprenda delle lungaggini burocratiche, sì, e ritorna costantemente. Sì, si arriva a livelli veramente paradossali. Sì, perché per cambiare l'operatore telefonico uno aspetta, a me è capitato di aspettare 3 mesi, alla fine senza chiamare qualcuno, ho dovuto chiamare l'ufficio stampa per avere per avere un servizio in 3 giorni. Sì, questo molti stranieri non lo capiscono. Non è facile da digerire, perché sono i classici problemi risolubili che a volte fanno arrabbiare ben più dei grandi problemi. Sì, no, proprio. Purtroppo sì, penso che ostacolano il business, gli imprenditori in Italia, persino in Bulgaria. Come dire, se ci sono più punti di internet senza fili che a in Roma. Italia. Sono queste stranezze, sì. Irina, grazie, grazie e buona giornata. Grazie e buona giornata ai vostri ascoltatori. Arrivederci. Grazie davvero a Irina Stoilova, corrispondente dall'Italia della Radio Nazionale Bulgara. Un altro ritratto, si può dire, impietoso, no? Perché alla fine questi corrispondenti stranieri, emerge dalle chiacchierate con tutte, hanno una sorta di legame emotivo molto forte, vivono in una patria per scelta, raramente sono stati mandati e costretti a starci, hanno deciso di rimanerci. ci spiegano in qualche modo le ragioni che li ligano all'Italia, e in questo affetto hanno naturalmente anche la sindrome da correzione, vorrebbero veder corretti quei problemi che sembrano di così facile risoluzione e che per gli italiani non solo sono insormontabili, ma addirittura sono invisibili. E che problema c'è? Sembra ti risponda quasi l'italiano quando ascolta queste testimonianze dall'estero, un estero che abbiamo interiorizzato e visti dagli altri. Questa rubrica che ritorna ogni mattina alle 8:15 in 24 mattino versione estiva con un corrispondente straniero. E allora ancora una volta buongiorno a chi ci ascoltasse da poco. Apriamo una pagina completamente diversa. Picchiata e violentata dal marito e da un suo amico, è la brutta storia vissuta a Napoli da una 32enne che, grazie anche a un sacerdote, ha deciso di denunciare quanto subito alla polizia. È iniziato tutto nell'aprile scorso, i due si erano sposati, ma dopo il matrimonio lui le aveva rivelato di avere già una moglie e anche un figlio di 13 anni in Sri Lanka. La 32enne aveva deciso di continuare comunque la relazione, ma dopo neanche 4 settimane l'uomo inizia a mostrare chiari segni di insofferenza alla loro unione e iniziano i maltrattamenti, che sfociano anche in violenza sessuale, e addirittura in giugno il marito la picchia e i vicini chiedono l'intervento delle forze dell'ordine. La donna decide di non sporgere denuncia per le lesioni subite, e anche questa è un'anomalia o comunque una caratteristica tutta italiana: è la donna che deve denunciare, mentre in altri casi, anche se la donna decide di non denunciare, le indagini vanno avanti da sé automaticamente quando ci sono segni evidenti di violenza. Comunque, ritornando alla vicenda di Napoli, una settimana dopo il coniuge ritorna a casa in compagnia di un amico in evidente stato entrambi legano la donna al letto e potete immaginare che tipo di violenza si consuma in seguito. Epilogo tragico: cercano di rifarlo un altro giorno, fin quando finalmente questa donna si convince a denunciare tutto. Che ne è di questi due? Questa è una risposta che può essere davvero sorprendente per il senso comune. Parleremo di violenza sulle donne, questo purtroppo, spiace dirlo, è l'ennesimo caso che quasi si perde nelle statistiche, nella sterilità dei numeri che tutti i giorni ci bombardano, ci arrivano senza che sembra cambi nulla. Ma si può fare davvero qualcosa per prevenirla, per evitarla, visto che non risparmia nessun paese, nessuna classe sociale? Si può forse agire sui maschi o sui maschietti, sui bambini, sui ragazzi? Si può insegnare a scuola il rispetto delle donne? Questo vi abbiamo chiesto. Se volete partecipare, www.radio24.it. 24 mattino estate. Ancora Irene Zerbini al microfono, ben ritrovati. Personalmente, questo è un sms che ci è appena arrivato al 349-238-6666, toglierei qualche ora di nozionismo dalle scuole e inserirei qualche ora di etica. Ci dice Davide, un ascoltatore di Cagliari, che abbiamo il dovere di essere uomini migliori. E proprio di questo parleremo in bianco o nero. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? I risultati a questo punto del sondaggio: vi abbiamo chiesto, parlando di violenza domestica, di violenza sulle donne, si deve insegnare a scuola il rispetto delle donne. I risultati a questo punto danno un 73% sì e un 27% no. Continuate a votare, www.radio24.it, il sito su cui potete farlo. Se volete parlare invece con noi, 800 24 00 24. Attenzione sulla violenza domestica, i numeri sono terribili ovunque. Pensate che va anche chiarito un equivoco: il nord, stando in Italia, ha il numero di vittime di sesso femminile, queste sono le statistiche riferite al 2008, più alto rispetto al sud, cioè al contrario del sentire comune molto diffuso ultimamente, per cui il sud è la patria di tutto ciò che è truce, il nord si fa bello vantando una superiorità morale che mi dovete spiegare dove sta. E al nord che sono più frequenti gli omicidi in famiglia. Nel 2008 sono state uccise 70 donne a fronte di 44 nel sud. Questi numeri agghiaccianti. Noi diciamo sempre di volerla contrastare, questa violenza in famiglia, ma poi come società in realtà accettiamo modelli che la stimolano, che la amplificano senza battere ciglio. Messaggi che passano anche ai bambini. Per questo con noi c'è un pediatra che saluto, Paolo Sarti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che immagini nutrono i bambini italiani ogni giorno? Ma dunque, i bambini italiani sono mitragliati di pessime immagini sulla cultura sessuale, sulla cultura maschile. Infatti quando si dice che non si fa educazione sessuale, in realtà se ne fa tantissima, si fa pessima educazione sessuale. Quindi quello che dobbiamo fare è proprio di rimboccarci le maniche e cominciare a fare una buona educazione sessuale. Lei per esempio va nelle scuole? Sì, noi andiamo nelle scuole. Io sono il presidente di un'associazione, si chiama Medici per i Diritti Umani, una ONLUS, che fra i suoi progetti di intervento c'è anche un progetto che si chiama Maschio per Obbligo. Questo Maschio per Obbligo vuole proprio lavorare con i giovani. Andiamo nelle scuole, cerchiamo di sollecitarli al dibattito, di farli vedere quelle cose che normalmente non si vedono. E lo facciamo per esempio facendoli riflettere sul mondo della pubblicità, sulle frasi che costantemente percorrono i nostri mass media, magari pronunciate da personaggi famosi, quindi hanno un grosso peso poi, no, nella loro credibilità per questi giovani. La fermo un attimo, la fermo un attimo, dottore, senta questa. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's all right because I like the way it hurts. E questo è un rap, la voce che sentite è quella di Rihanna, Eminem, e ci sta raccontando che le piace da morire stare lì e farsi bruciare mentre lui la guarda. È un rap sulla violenza domestica che sta scalando tutte le classifiche americane, in cui praticamente si parlano questi due amanti, sono una specie di furia. Se quella prova un'altra volta a lasciarmi, poi continua lui, io la leggo a letto e brucio la casa, lei risponde con questa cantilena che avete sentito: tu stai lì, mi guardi di bruciare, ma a me va bene così, mi fa male, ma mi dà anche piacere. Abbiamo parlato di messaggi che bombardano i bambini italiani, non sono evidentemente solo i mass media o la cultura italiana, per cultura naturalmente intendo ciò che circola, ciò che respiriamo mentre non prestiamo attenzione, a riempirci di queste immagini. Elena Doni, buongiorno. Buongiorno Irene. Elena Doni, giornalista, scrittrice, ricordo che collabora con Unità, col gruppo Controparola, formato da scrittrici appunto e da donne, da giornaliste. Ha sentito le parole di questa canzone, Elena? Terribili, terribili, veramente. Ma come si reagisce con la censura? No, non, io non credo nella censura, non... Penso che le cose poi scappano fuori da qualche altra parte, con qualche altro mezzo. Si reagisce con la parola, penso. Prima chiedeva nelle scuole, se nelle scuole bisogna parlarne. Sì, certo, ma anche tanto io credo in famiglia, perché nelle scuole è necessario fare un discorso abbastanza complesso contro la violenza. In famiglia alle volte basta una parola di biasimo nei confronti di qualcuno che ha commesso qualche atto violento, e questo trasmette determinati valori. Ma quello che dicono gli studiosi dell'infanzia è che in famiglia non si parla più, e non si parla più soprattutto di valori e disvalori. Cioè il bambino o il giovane, insomma, viene bombardato da messaggi che arrivano senza alcun confronto, senza alcun dialogo che segua questo bombardamento anche di informazione. A proposito della vicenda che abbiamo raccontato, arrivata da Napoli ieri, della donna che finalmente ha deciso di denunciare marito e amico sono stati denunciati in stato di libertà per concorso in violenza sessuale e lesioni. C'è una controversia anche sulle misure per combattere la violenza. In questo caso si parla di stupro, ma noi stiamo parlando così a largo raggio di maltrattamenti. Non c'è il carcere obbligatorio in Italia per gli stupratori, o almeno la Corte Costituzionale ha cancellato questa norma. Ma aiuterebbe un inasprimento delle pene, anche delle misure cautelari, Elena? Io credo di sì, ma penso anche che non esista il rimedio principe, non è la prigione, non è la condanna, non è solo la scuola, non è solo la famiglia, ci dovrebbe essere, e grazie all'informazione questo sta avvenendo. Bisogna denunciare l'orrore della violenza, bisogna mettere in guardia le donne anche, sapere che possono in qualche modo uscire da degli stati di soggezione terribile. E anche, penso ai casi recenti di 2 giorni fa di una ragazza americana che si accompagna a 2 giovani italiani e poi viene stuprata nel bagnetto di un barcone che galleggia sul Tevere, o la ragazza francese che conosce un ragazzo in discoteca e insieme vanno a fare una passeggiata notturna, eccetera, anche lei finisce stuprata, svenuta, insanguinata, ospedalizzata dopo, eccetera. Ma possibile che non si pensi anche a questo? Quindi le donne devono sapere che possono e devono anche difendersi. Ma cosa intende possibile che non si pensi anche a questo? Cioè, la ragazza come poteva tutelarsi, come poteva prevenire un atteggiamento di questo genere? Doveva evitare di andare a fare una passeggiata in un luogo di notte e in un luogo non abitato con una persona che aveva conosciuto 10 minuti prima. Eppure è una pratica diffusa questa del circolare di notte liberamente senza che nulla ti succeda dal punto di vista sessuale in altri paesi, e anche a me personalmente ha lasciato sempre così stupita e sorpresa in maniera favorevole naturalmente la libertà di azione, di circolazione che ho visto a notte inoltrata per le donne americane, per le donne canadesi, per le donne dei paesi del nord, che tra l'altro amano anche bere in maniera massiccia, e poi tornano a casa da sole tranquillamente senza che la paura dello stupro sia interiorizzata come da noi. Questo è forse un segno invece di civiltà. E a proposito di civiltà, sono molto cose significative le classifiche sulla violenza verso le donne, perché non risparmiano nessuno. E addirittura non risparmiano quei paesi che invece in genere sono sinonimo di eccellenza quando si parla di democrazia, apertura mentale, conquiste democratiche. Sto parlando dell'Islanda, sto parlando dell'Olanda, della Danimarca, del Canada, appunto, che abbiamo appena nominato. Sono paesi in cui comunque i 2/3 degli omicidi di donne sono consumati da partner o ex partner, esattamente come in Italia. In alcuni paesi del nord sono addirittura di più le vittime di violenza da parte degli uomini. Si pensi che alla Danimarca, in Danimarca, questi dati sono molto vecchi, ma nel corso di questi ultimi anni non è cambiato molto, risalgono appunto a qualche anno fa. 61 donne e 9 bambine sono state uccise nel 2003 in un paese che ha poco più di 5 milioni di abitanti. In Italia nel 2008 le donne uccise furono 181. Se anche in nazioni dove la donna poi è rispettata sul lavoro, gode di certi diritti, viene comunque colpita, viene comunque perseguitata, torturata, uccisa, c'è speranza di risolvere questo problema o dovremo conviverci per sempre? È connaturato alla natura umana? Torno da lei, dottor Sarti. Io non assegnerei però questa tragicità alla natura umana. È vero che ci sono dei valori primitivi che riemergono quando manca la cultura, quando manca l'educazione all'affettività, quindi è su quella che dobbiamo lavorare. Certo, distrae dai programmi quando si sente dire che paesi che da tempo fanno magari educazione e formazione sessuale si trovano problematiche simili alle nostre, però credo che il principio sia proprio questo, c'è solo un'arma. L'educazione al rapporto, l'educazione all'affetto, cosa che non viene praticata, come diceva giustamente prima l'ospite, non viene praticata nemmeno a casa, quindi la scuola sì, può supplire con la cultura, ma non può integrare quello che manca assolutamente nella famiglia. Prima si parlava di prudenza delle donne, no? Di non accedere a luoghi a rischio, ma però non è una strategia questa, magari sì, la possiamo considerare una prudenza del momento, ma non possiamo pensare di far crescere le donne che devono aver paura di uscire la sera. Io credo che più che lampioni nei parchi, servano i lampioni nella testa degli uomini. Noi dobbiamo illuminare la mente dei maschi e questo lo si fa solo con la cultura, piano piano, ricominciando a fare cultura. L'abbiamo persa da molti anni. I lampioni nella testa dei maschi, di un'iniziativa rivolta proprio ai maschi, parleremo tra pochissimo. È un'iniziativa della provincia di Torino, è un volantino che circola, forse qualcuno di voi l'ha vista nel capoluogo piemontese, e si rivolge ai maschi con delle domande specifiche. Ti accorgi di avere reazioni violente? Vivi una situazione familiare conflittuale? In famiglia non vi parlate più? Scarichi in casa la rabbia? Dice il volantino. Se hai qualcuno di questi disagi, chiama questo sportello telefonico dove troverai qualcuno con cui confrontarti per trovare una strada possibile da percorrere per migliorare le relazioni. Ma funziona? Io sono o blanco o nero. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il 72% dei nostri ascoltatori pensa che il rispetto delle donne andrebbe insegnato a scuola. C'è anche chi ci dice non dovremmo dare importanza solo alle 3 informatica, impresa, inglese, ma anche alle classiche materie umanistiche. Leonardo che ha dato un contributo. E poi una domanda di Andrea da Varese: ma esiste una specifica violenza sulle donne? Un soggetto che pratica violenza non sarà piuttosto un violento in generale? Tra poco cercheremo di dare anche questa risposta. Torniamo all'iniziativa di Torino, cioè questo sportello che dovrebbe aiutare gli uomini a uscire dal disagio. Uno degli ideatori è qui con noi, dell'Associazione Nazionale Maschile Plurale, Cerchio degli Uomini, Domenico Matarozzo. Grazie per il suo tempo innanzitutto. E secondo lei dunque il maschio che colpisce, che picchia, che stupra è a sua volta vittima di un disagio? Buongiorno. Buongiorno. Sì, diciamo che è anche vittima di un disagio. Terrei a precisare che le associazioni sono due, il Maschile Plurale è un'associazione nazionale e poi Cerchio degli Uomini è un'associazione di Torino e dintorni, quindi giusto per precisare. Sì, credo che sia anche questo. Io sono contento di questi interventi precedenti perché mi sembrano molto interessanti, soprattutto questo discorso della pessima educazione sessuale. È vero che esiste un'educazione sessuale, ma è pessima. Per quanto riguarda il disagio, io credo che ci sia un disagio, perché non è sufficiente, è vero che sono tutte cose esatte, ma non è sufficiente però parlarne di queste cose, ma bisogna in qualche modo anche far provare ai giovani, e non solo ai giovani, cosa vuol dire la gestione del proprio disagio, delle proprie emozioni. Io credo che sia importante considerare il fatto che non è solamente un livello razionale che può aiutare la persona, una volta che capisce che sta facendo un sopruso, credo che sia importante fargli sperimentare un uso corretto della propria forza, un uso corretto della propria rabbia, cioè lavorare su una comprensione e razionalizzazione, sì, su una capacità. Voi siete di stati stare. Accusati per questa iniziativa di giustificare gli uomini che picchiano. Questa è l'ultima delle cose che ci riguarda assolutamente. Noi stiamo proprio facendo questa iniziativa, non solo non giustifichiamo, ma ci intendiamo a mettere a nudo questa difficoltà da una parte, ma anche questa prepotenza che l'uomo si assume, perché culturalmente l'uomo, come dicevate prima, le pubblicità e così via, viene fuori questa immagine dell'uomo che può fare. Cioè, io credo che sia importante questo discorso dell'educazione, come si sta instillando nei giovani e non solo, questo messaggio che può, l'uomo può. C'è il pediatra con noi, Paolo Sarti. Sì, che sono perfettamente d'accordo con quello che diceva il mio collega. Che dice che questi stereotipi si nutrono tra le mura di casa. Ma è colpa della madre? La madre è un grosso personaggio implicato in questa responsabilità, la madre, certo, però è colpa di tutta la famiglia, quindi anche del padre, che spesso ha la colpa di non esserci, che è già una colpa, nel senso di non occuparsene, o comunque quando c'è presenta modelli sui quali si è formato lui e fa commenti di un certo tipo alla televisione quando vede le ragazze che ballano e così via. È una società tutta volta a una maleducazione. Voi dovete immaginare che la televisione adesso insegna maleducazione sessuale, è pieno di programmi che maleducano, ma anche pieno di personaggi importanti che maleducano. Io vorrei ricordarvi che il nostro Presidente del Consiglio è stato denunciato alla Corte Europea di Strasburgo per le continue e ripetute dichiarazioni di disprezzo per la vita e la dignità delle donne. Beh, che qua in Italia 2009. Però di solito portano in realtà pacche sulle spalle, no? Un senso di consorteria tra... Questo glielo consentiamo noi, popolo italiano, di limitarsi alle pacche sulle spalle, perché esisterebbero anche delle leggi. Che vietano anche questo, un certo tipo di linguaggio. Poi qualcuno le può accusare di politically correctness, alcuni possono pensare che siano solo così delle ossessioni di qualcuno che non ha di meglio da fare. Poi in realtà, quando queste leggi sono applicate, ne consegue anche nella società una riflessione. Quando si cambia il linguaggio, ci si ferma prima di dire quella parola, prima di esternare quel commento e si pensa. Interessante questo contributo di una madre. Ieri sera al TG hanno trasmesso la notizia di una donna afghana frustata e poi uccisa perché accusata di adulterio. Mio figlio di 12 anni ha chiesto perché le donne non hanno diritti e possono essere trattate così. Se un bambino può capire, dunque deve essere educato. Noi ne parliamo a casa, ma va fatto anche a scuola. Arriva da Verona questo contributo. Senta, tornando alle scuole, dottor Sarti, quando lei ci è andato, ha incontrato questi ragazzi, innanzitutto che età avevano? Ma lo abbiamo fatto a vari livelli, abbiamo fatto sia nelle elementari che nelle scuole superiori, ma soprattutto nelle superiori, i primi anni delle superiori. E cosa ha riscontrato? Beh, sono intanto attratti dall'idea finalmente di poter parlare liberamente di queste cose. Noi gli facciamo porre domande libere, tanto libere che le facciamo scritte e segrete su bigliettini, quindi veramente si liberano e chiedono di tutto. Questo gli apre il cuore, diciamo, finalmente possiamo parlare di queste cose. Ecco, poi noi cerchiamo di orientare le risposte non sul tecnicismo di una risposta che dà sì informazione, ma che non viene inquadrata in un aspetto culturale più ampio, e cerchiamo sempre di spostarsi sul mondo delle relazioni, dell'affettività, perché si inquadrino gli atti e i gesti e le forme della sessualità e della comunicazione sessuale all'interno di relazioni. E questo credo che sia il compito principale che siamo posti, cioè di combattere gli stereotipi di formazione maschile, quelli che sono emarginanti, quelli che sono prevaricanti, e far ragionare questi ragazzi su quanto questi stereotipi vanno rimossi e sostituiti. Lavoro lungo, duro e chissà se dà risultati nell'immediato. Però sono voluti molti anni per maleducarci, ce ne vorrà forse di più per rieducarci un po'. Ma invece Matarozzo, che lavora con gli uomini, si parla di stereotipi maschili di cui sarebbero vittima anche i maschi, che difficoltà ha riscontrato lei negli uomini che hanno contattato il vostro centralino, forse prima di perdere la testa? Ti accorgi di avere reazioni violente? È una delle domande che voi ponete in questa specie di dépliant che gira a Torino. Quali sono le problematiche, possibilità di parlare? Sembra che i maschi abbiano più difficoltà a gestire le proprie emozioni, quindi anche ad aprirsi con altri uomini. Certo, questo è il filone più importante, la cultura anche patriarcale dell'uomo, che ha sempre in qualche modo gestito le relazioni in un certo modo, ha sempre avuto difficoltà sia a parlare, a condividere con gli altri le proprie emozioni, le proprie difficoltà, prima a riconoscere naturalmente le proprie difficoltà, ma poi anche a parlarne accettandole. Cioè, io questo tema qua lo vedo molto intriso di non accettazione, capacità, non capacità ad accettare quella che è la realtà. Cioè, io posso accettare che la realtà è una mia difficoltà a stare col dolore e a non trovare per forza la soluzione nel convincere per forza la mia compagna. Dolore magari di una separazione, o della esatto. Volontà espressa di una separazione, lei dice. Esatto, moltissimi sono gli stalker che in qualche modo provano a moltissimi, purtroppo no, moltissimi, comunque sono molti gli stalker che ci chiamano, perché sono in quella fase di non accettazione di questa situazione, non gestiscono una separazione, hanno difficoltà a gestire un cambiamento. Torniamo alla domanda sulla violenza, un violento con tutti, esiste una violenza specifica sulle donne, ce lo chiede un ascoltatore, ma è interessante. Storicamente le donne, e non solo in Italia, sono state picchiate, hanno subito violenza sessuale o fisica da maschi che conoscevano, cioè solo una su 100, lo dicono anche i dati sugli stupri, viene aggredita per strada dal classico sconosciuto. Il maschio che conosce la donna anche intimamente si lascia andare a reazioni che non ha poi col capo ufficio, anche se la sua frustrazione viene da un licenziamento, per esempio, che non ha con donne, con la dentista che gli dà una parcella salata o cose di questo tipo. Perché questa possibilità di violenza in famiglia, Elena Doni? Bella domanda, alla quale non saprei rispondere realmente, perché è più comodo, perché lì, perché è una cosa tua probabilmente, la donna che è in famiglia è sentita come un possesso da parte di molti uomini. E questo si riallaccia anche al tema che avete appena toccato dell'educazione e della rieducazione in alcuni casi. Per esempio in Spagna c'è una cosa che funziona, un provvedimento diciamo che sì. Funziona bene. Qual è? Chi ha commesso degli atti di violenza, non eccessivamente gravi ovviamente perché sennò va direttamente in prigione, ma viene sottoposto obbligatoriamente a dei trattamenti di rieducazione e tenuto poi vigilato per qualche anno in seguito, e questo ha prodotto un deciso abbassamento degli atti di violenze gravi, mentre a proposito del Grande Nord ci sono paesi come la Finlandia dove c'è un'alta percentuale di violenze contro le donne, di omicidi addirittura in famiglia a causa dell'alcolismo, quindi sono tanti e sfaccettati. Detto questo, io credo che noi tutti dobbiamo come società essere grati a trasmissioni come questa, proprio perché stiamo facendo forse educazione sessuale. No, stiamo cercando di chiederci anche invece, e adesso a prescindere purtroppo dalle trasmissioni come questa che ci sono, ce ne sono tante e ne potremmo citare, ci stiamo chiedendo se ci può essere una, non soluzione definitiva, ma almeno una possibilità di arginare il fenomeno. Se cominciare a discuterne anche da piccoli e nelle scuole può portare a dei risultati. Questa è la domanda che vi abbiamo fatto oggi, tra l'altro potete continuare a esprimere la vostra opinione. I sì a questo punto hanno toccato quota 73%, i no 27%. Per votare www.radio24.it. C'è poi anche l'elemento nella donna tenuta sotto scacco del ricatto economico, per esempio, per cui la donna che non ha una propria indipendenza anche lavorativa è più facilmente vittima di ricatti, di soprusi continuati. C'è l'elemento della donna che è violenta verso l'uomo, c'è anche questo elemento, ce lo segnalano ascoltatori che hanno subito esperienze di questo tipo, e sicuramente non è che vogliamo farle passare sotto silenzio. Dovendo trascurare qualcosa per ragioni di tempo, ci siamo soffermati sul 98% delle vittime delle statistiche, ma soprattutto vorrei concludere con Paolo Sarti, che nelle scuole a contatto con i giovanissimi lavora come pediatra e come educatore con l'associazione Medici per i Diritti Umani di Firenze. Secondo lei qual è il messaggio da far passare? Ha parlato di cattiva educazione sessuale, facciamo educazione sessuale con la pubblicità, facciamo educazione sessuale con le immagini delle donne sempre disponibili e sempre disposte a farsi giudicare dal punto di vista fisico più che da altri punti di vista. Qual è un messaggio positivo che come genitori si potrebbe far passare, efficace? Guardi, come genitori io azzardo qualcosa che forse creerà un po' di disagio, ma bisognerebbe che le mamme soprattutto cambiassero il loro atteggiamento nei confronti dei figli maschi. Perché vi assicuro che ormai sono 40 anni quasi che sono pediatra, c'è un annientamento della figura femminile quando nasce un figlio maschio che la porta a tollerare tutto, gli consente cose che alla figlia femmina non consente. Piano piano questo bambino cresce in una capacità di fare quello che vuole, diventa il padrone di casa, diventa onnipotente, e questo accade soprattutto se è maschio. Allora cominciamo anche a insegnargli questo rispetto, perché questa prepotenza, questo è tutto mio, tutto mi spetta e ho diritto a prendere cose se anche non me le vogliono dare. Come il bambino della pubblicità con le mani sui fianchi che dice alla madre, mamma che diceva, ho fame. Mamma ho fame. Elementi su cui riflettere. Grazie a tutti voi che avete partecipato. Era Paolo Sarti da Firenze, dottore pediatra, Domenico Matarozzo, Elena Doni da Irene Zerbini. L'appuntamento a domani mattina con 24 Mattino alle 7:15. Buona giornata.